La temperanza è quella virtù di moderazione nel soddisfacimento dei bisogni e dei desideri naturali, delle passioni e dei piaceri. Ho notato con stupore che in alcune traduzioni della Bibbia questa parola non compare, e al suo posto è stato usato il termine autocontrollo. In altre versioni la sua comparsa è rara. È vero che troviamo il sinonimo sobrio, ma anche questo termine è abbastanza insolito. Così, considerando il tema della temperanza, non sempre nella parola di Dio leggeremo proposizioni che contengono questo vocabolo, ma in ogni lettura biblica vi sarà l'aspetto della temperanza o sobrietà, perché, come vedremo, è una virtù fondamentale. Infatti Gesù, parlando del suo ritorno, ha avvertito i suoi discepoli dicendo: «Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio». Luca 21:34. Dunque l'intemperanza, la sregolatezza, l'eccesso caratterizzeranno i tempi che precederanno il ritorno di Cristo. E considerato che il ritorno di Cristo è sempre più vicino, è indispensabile trattare questo argomento. Per prima cosa, dobbiamo dire che la temperanza è richiesta a tutti. È richiesta ai conduttori di chiesa e alle loro mogli, 1 Timoteo 3, ai giovani e ai vecchi, alle donne attempate, Tito 2, com'è richiesta agli sposi, 1 Corinzi 7. L'Apostolo Paolo, paragonando la vita cristiana ad una gara, scrisse ai Corinzi: «Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile», 1 Corinzi 9:25. Dunque la temperanza deve costituire l'elemento guida di ogni azione e parola di ogni figlio di Dio, perché egli possa in ogni momento essere idoneo al servizio di Gesù Cristo. E non solo. Senza la temperanza, chi ha posto fede in Cristo è esposto più di tutti ad essere preda del diavolo, che in modo particolare cerca credenti sregolati o con aspetti estremi. È Pietro che mette allerta nella sua prima lettera: «Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare». 1 Pietro 5, 8. Sono gli estremisti, quelli tutti da una parte, coloro che camminano su due binari e non vedono altre alternative, che sono una facile preda di errori grossolani e a volte deleteri. Quanti errori vengono commessi a causa della mancanza di temperanza? Consideriamo 7 aspetti della vita dove la parola di Dio mette enfasi sulla necessità della temperanza. Il primo è sul concetto che dobbiamo avere di noi stessi. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Romani 12:3. Non è affatto facile avere un'opinione sobria o temperante di se stessi, perché tutti tendiamo ad avere un concetto più alto. Dal discorso di Paolo sembra che avere una opinione inferiore di se stessi sia inesistente, e forse questo è vero. Anche quando si fa sfoggio di umiltà, non sempre è così. Spurgeon disse che disprezzare la propria persona per fare sfoggio di umiltà equivale ad essere degli ipocriti nauseanti. Nessuno di noi è assolutamente privo di capacità o di una qualche virtù morale, e noi non dovremmo cercare di fare credere il contrario. Negare l'evidenza non è necessario per essere onesti. D'altra parte, chi ha un'alta opinione di se stesso probabilmente ha fatto qualche errore grossolano nell'addizionare le sue virtù. Perciò l'ordine di Paolo è alquanto opportuno. Se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso, e non perché si paragona agli altri, Galati 6, 3-4. È vero, la maledetta fobia di sentirsi dotati di importanza o di qualità particolari deriva dal fatto che ci paragoniamo con altri simili a noi. Se invece ci paragonassimo a Gesù Cristo, il problema sarebbe risolto. Inoltre, l'opinione che abbiamo di noi condiziona anche ad avere un giudizio temperato. Gesù disse: «Badate a ciò che udite. Con la misura con la quale misurate sarete misurati pure voi, e a voi sarà dato anche di più». Marco 4:24. Un concetto sbagliato di noi porta inevitabilmente ad avere un concetto e un atteggiamento sbagliato verso gli altri. Se io penso di saperne più degli altri, se penso di avere una marcia in più, se penso di essere più importante, è evidente che il mio parlare e il mio comportamento sarà di superiorità, per quanto io cerchi di nasconderlo. Ma se, come l'Apostolo Paolo, ho la convinzione di essere il primo dei peccatori, o il peggiore, allora non farò fatica a manifestare la virtù della virtù della. La virtù della temperanza deve coinvolgere ogni settore della nostra vita. La saggezza del libro dell'Ecclesiaste è più che mai opportuna. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenda fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio infatti evita tutte queste cose. Ecclesiaste 7, 16-18. Questo brano della scrittura è uno dei miei preferiti. Essere giusto è certamente una delle legittime ambizioni del cristiano, ma essere troppo giusto, cioè dimenticare che la legge è stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge, in sintesi essere legalista, è uno degli errori più frequenti che si commettono. Anche essere troppo saggio, cioè pretendere di avere una risposta a tutto, è sbagliato. E poiché noi tutti sbagliamo e siamo stolti, la parola di Dio ci ordina di non esagerare nelle mancanze. In definitiva, sia nel bene che nel male, occorre temperanza. Gli estremi non piacciono a nessuno, neppure a Dio. Pochi hanno compreso che la vita cristiana è vivere la quotidianità della nostra esistenza, con tutti i contrasti, con tutte le sue contraddizioni, con le assurdità che comporta, senza avere sensi di colpa, perché questo fa parte del piano di Dio. Noi vorremmo la verità a senso unico. Vorremmo l'amore puro. Vorremmo relazioni perfette. Ma non ci rendiamo conto di essere estremisti, esprimendo tali sentimenti. In tutte le cose vi è il suo contrario. Non vi è luce senza tenebre. Non vi è amore senza odio. Perciò dobbiamo essere temperati nella condotta senza esigere degli assoluti. Per questo dobbiamo tenere presente la temperanza anche nelle decisioni. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Proverbi 19:2. È difficile definire quando si cammina in fretta, soprattutto quando tutti vanno dello stesso passo, ma una regola sicura per cadere in questo errore è non dedicare alla riflessione e alla preghiera un tempo sufficiente. Un figlio di Dio deve credere alla mente di Cristo deve credere per fede che il suo tempo di preghiera sia in grado di indicargli la giusta strada. Se commettiamo degli errori facendo delle scelte sbagliate, spesso non è dovuto ad ignoranza, ma alla fretta. Alla fretta di possedere, di avere, di realizzare dei sogni o progetti che la vita, e quindi Dio, al momento non ci concede. La temperanza nelle decisioni può fare quello che non fa la nostra conoscenza. Vi sono altri tre aspetti della vita dove occorre la temperanza: nel parlare, nei piaceri e nel servizio di Dio. Riguardo al parlare, la parola di Dio si esprime così: chi modera le sue parole possiede la scienza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Proverbi 17:27. Devo confessare che quando ero giovane non sempre ho moderato le mie parole e questa mancanza di temperanza mi ha procurato tanti problemi. Come letto in seguito nella scrittura, anche lo stolto quando tace passa per savio, perciò un parlare controllato, per quanto non sia perfetto, è sempre opportuno. Che Dio ci preservi dall'abitudine di pensare che dobbiamo esprimere un'opinione su ogni argomento e in ogni occasione. Che ci tolga il desiderio ardente di sistemare gli affari degli altri, ma piuttosto ci dia la capacità di vedere cose buone in luoghi inattesi e talento in persone insospettate e la capacità di dirglielo. In merito ai piaceri della vita, il libro dei Proverbi è ricco di insegnamento. Se trovi del miele, prendine quanto ti basta, perché mangiandone troppo, tu non debba poi vomitarlo. Proverbi 25, 16. Quando si trova una cosa piacevole, sembra che non possa soddisfarci mai. Eppure, tutto, ma proprio tutto, senza sobrietà, diventa nauseante. Dio non è contro i piaceri, perché egli ne ha disseminati ovunque, egli ci somministra copiosamente ogni cosa affinché ne godiamo. Ma conoscendo la nostra natura, sa che non possiamo sopportare nessun estremo. Anche nei piaceri. Un giorno sono sceso in una vasca termale calda e stavo così bene che mi sono subito promesso che ne sarei uscito solo alla sera, ma solo dopo 2 ore ero già stanco di quel benessere. Che Dio ci convinca che il piacere senza temperanza è diabolico. Infine, la temperanza è indispensabile per servire Dio. Così si esprime l'Apostolo Pietro. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 1 Pietro 4, 10, 11. Dunque, anche lo zelo, se non è accompagnato dalla temperanza, è sbagliato. E ad affermarlo è un uomo che non mancava di zelo, un uomo che era pronto a sacrificare, ed ha sacrificato la sua vita per Cristo. Chi serve Dio senza temperanza può sprofondare in esaurimenti nervosi, in depressione, e a volte può perdere la fede. Che Dio ci dia di comprendere il valore della temperanza. Lo dia di comprenderlo ai giovani nei piaceri giovanili, per non cadere nella droga o in sette. Lo dia di comprenderlo agli uomini maturi, per dare il giusto spazio ai doveri della vita e a Dio. Lo dia di comprenderlo ai vecchi per non sentirsi inutili. Ciò che non fa l'intelligenza, lo faccia la gennaio 2005. Ellero.